Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine, il giorno dopo il Consiglio Comunale voluto dall'opposizione sui temi della sicurezza, si analizzano i documenti approvati dalla Sise cittadina. Si parla di atto prettamente politico riferito alla manifestazione in ricordo di Tominac. Nuovo asilo di Roiano slitta ancora in Consiglio Comunale a Trieste l'approvazione della delibera che concede ai privati la gestione della struttura. I Risi di Parma sono tornati sulla scena del delitto di Bicinico, dove Silvia Comello, 42 anni di Reana del Royale, avrebbe ucciso il 43enne Stefano Juric con diversi colpi di coltello e forbici. Alla festa dell'indipendenza americana nella base di Aviano, la Guardia di Finanza di Pordenone ha trovato fra gli stand 5 lavoratori in nero. Un'attrezzatura per la tomografia oculare computerizzata è stata donata da un gruppo di imprenditori della Carnia, coordinati dall'Associazione Candoni e l'ospedale di Tolmezzo. Il bilancio di Autostrade Alto Adriatico per il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre chiude con un esercizio inutile di 2.600.000 euro. Abbiamo incontrato Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, che è stato confermato vicepresidente vicario di Unoncamere. Nella sede di Gorizia della Facoltà di Architettura è iniziato un laboratorio che ha l'obiettivo di avvicinare gli aspiranti progettisti alla pratica della loro professione. Alle 12.31 ancora un cordiale buongiorno da Francesca Terranova e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo il movimentato Consiglio Comunale di Udine sulla sicurezza in città si discute ancora sui documenti approvati dalla Sise, mentre la maggioranza riguardo alla manifestazione in ricordo di Tominaga parla di atto politico. Il giorno dopo il corteo di commemorazione di Shinpei Tominaga, i fiori bianchi depositati da chi vi ha partecipato sono ancora davanti alla porta della sua casa di Udine, città dove l'imprenditore giapponese viveva da tempo. Una sfilata silenziosa di 700 persone organizzata dal Comitato Udine Sicura, che in Piazza Libertà si è trasformata in un'aperta contestazione alla giunta comunale, tanto che per l'amministrazione si è trattato di fatto di una manifestazione politica, una strumentalizzazione di coloro che avevano preso parte al corteo con l'intenzione solo di ricordare Tominaga e che avevano a cuore il tema sicurezza a Udine. Il confronto tra il sindaco Alberto Felice De Toni e il presidente del comitato Federico Malignani è durato un paio di minuti prima che il primo cittadino fosse costretto dall'ira di alcuni manifestanti a rientrare in comune, dove era in corso un consiglio proprio sulla questione sicurezza. Approvati a maggioranza un ordine del giorno della consigliera Alessandra Gatta, lista De Toni, per chiedere alle autorità preposte l'arrivo dei Falchi, un'unità della squadra mobile presente in alcune questure italiane specializzata nella repressione del crimine di strada. La discussione è poi proseguita fino alle 23 con il via libera a una mozione della maggioranza che impegna sindaco e giunta a promuovere il dialogo con le autorità di sicurezza, con la regione e con lo Stato, anche per rivedere le regole di gestione dei minori non accompagnati. Una mozione a cui l'opposizione ha detto no perché è ritenuta uno scarico di responsabilità da parte del sindaco. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In Consiglio Comunale a Trieste ancora un rinvio per l'approvazione della delibera che concede ai privati la gestione del nuovo asilo nido costruito dal Comune a Roiano. Dopo 9 ore di seduta, durante le quali i consiglieri di minoranza e anche la consigliera di Forza Italia Angela Brandi si sono opposti con forza alla delibera in ogni sua parte, la maggioranza ha rimandato tutto al 30 settembre. Lunedì 1 luglio c'era stata un'altra analoga discussione in aula durata 9 ore. Per il capogruppo del PD Giovanni Barbo a opporsi non sono solo tanti consiglieri, ma anche le famiglie dei futuri utenti del servizio, preoccupate anche dalle tariffe dei 33 posti privati che la maggior parte di loro non potrà permettersi. Compatte per il no anche tutte le sigle sindacali, nonché il Comitato Unico di Garanzia del Comune e 5 circoscrizioni comunali su 7. Insistiamo, concludono i capigruppo di opposizione, perché la delibera venga ritirata. La pagina del tempo, cielo sereno su pianura e costa, variabili in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 32 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, Gorizia 33 gradi, Pordenone 31, Udine 30 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 27 gradi e mezzo, Forno di Sopra 25, Tarvisio 24 e 5 decimi, Sappada 23, Piancavallo 22, sullo Zoncolan 19 gradi, tornando sulla costa grado 31 e mezzo, Lignano 30 con temperatura del mare a 27 gradi. Vediamo le previsioni. Oggi pomeriggio su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con caldo afoso nel pomeriggio sera. Sulla zona montana cielo poco nuvoloso per la formazione di qualche cumulo pomeridiano. Dal tardo pomeriggio non si esclude del tutto la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco nelle zone al confine con la Slovenia. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso con caldo afoso. Sulla zona montana cielo variabile con maggiore nuvolosità dal pomeriggio, quando sarà possibile qualche rovescio o temporale. Venti a regime di brezza. I RIS di Parma, ovvero i carabinieri dei reparti investigazioni scientifiche, sono tornati questa mattina a Bicinico, sulla scena del delitto dove il 4 maggio dello scorso anno Silvia Comello, 42enne di Reana del Royale, avrebbe ucciso il 43enne Stefano Iurigio con diversi colpi di coltello e forbici. Sotto analisi le macchie di sangue e le impronte ancora presenti. Calzari, mascherine, tute bianche, laser scanner e macchine fotografiche. A Bicinico sono arrivati da Parma i carabinieri dei reparti investigazioni scientifiche, i RIS, per studiare le macchie di sangue e le impronte ancora presenti al civico 75 di via Roma. Qui il 4 maggio Silvia Comello, 42enne di Reana del Royale, ha ucciso il 43enne Stefano Iurig con diversi colpi di coltello e forbici, versando poi sul corpo dell'acido muriatico. L'appartamento è ancora sotto sequestro, nulla è stato toccato da allora. Al di là della soglia, un laser scanner spostato in diversi punti restituisce lo scheletro della stanza. Una macchina fotografica ruota a 360 gradi per rivestire questo scheletro di immagini. La ricostruzione 3D dell'ambiente è utile per non tornare più sulla scena del crimine e togliere più avanti i sigilli dell'autorità giudiziaria. Coordinati dal nucleo investigativo dei carabinieri di Udine, al lavoro sia la sezione biologia dei RIS per la cosiddetta BPA, la Bloodstain Pattern Analysis, ovvero lo studio delle traiettorie delle gocce di sangue, aiuta a capire se ciascuna di esse è il prodotto di una proiezione o del gocciolamento di un coltello, per esempio, metodologia che si rivelò fondamentale nel delitto di Cogne. Presente anche la sezione dattiloscopia per analisi sulle impronte, per esempio di calzature. Tutte metodologie utilizzate per capire se la ricostruzione dell'indagata combaci con le evidenze sul posto. Intanto è stata accolta la richiesta dell'avvocato difensore di Comello, Irene Lenarduzzi, di perizia psichiatrica. Sarà effettuata nelle prossime settimane. A novembre è fissata un'udienza per riferire degli esiti della perizia. Aveva raccontato di aver incontrato Iurig quella mattina al CERT di Udine e in seguito di essere andata a casa sua, dove hanno assunto stupefacenti. Lo uccise, aveva detto, collaborativa in interrogatorio, per sconfiggere il male, perché in lui aveva visto il demonio. La donna resta detenuta nella sezione femminile del carcere di Trieste. Bicinicco, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Durante i festeggiamenti del 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, la Guardia di Finanza di Pordenone ha trovato fra gli stand della base militare americana di Aviano 5 lavoratori in nero, uno al giorno in media, i lavoratori scoperti dalla Finanza di Pordenone da inizio anno. Sono in tutto 5 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Pordenone durante i controlli agli stand enogastronomici allestiti all'interno della base di Aviano nel corso delle celebrazioni per il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana. I finanzieri che hanno operato in sintonia con il comando dell'aeroporto militare e con gli omologhi del 31esimo stormo dell'aeronautica statunitense hanno eseguito una serie di verifiche alle tante rivendite ambulanti gestite da imprenditori italiani e presenti in occasione dei festeggiamenti. Di queste, un commerciante di prodotti alimentari di Pordenone impiegava 4 persone in nero nella somministrazione di alimenti pronti al consumo, mentre un secondo, una gastronomia da asporto, non aveva regolarizzato un addetto al confezionamento del cibo. A un terzo esercizio, invece, i finanzieri del gruppo di Pordenone della tenenza di San Vito al Tagliamento hanno contestato la mancata emissione di 2 scontrini fiscali. Sono complessivamente 166 lavoratori in nero individuati dalle fiamme gialle del Friuli occidentale da inizio anno, 82 le aziende verbalizzate, per 43 delle quali è stata proposta al competente ispettorato territoriale del lavoro la sospensione dell'attività. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato presentato a Trieste, nella sede del Consiglio regionale, il nuovo osservatorio regionale antimafia. Sentiamo com'è andato. È consistita in un breve incontro di presentazione la prima riunione del nuovo Osservatorio regionale antimafia, la cui composizione è stata rinnovata a giugno. Due i membri rimasti in carica, l'avvocata udinese Roberta Clama e il sociologo impiegato alla Banca Mondiale Paolo Tomasin. Tre invece quelli nuovi, scelti dal Consiglio regionale: Gerardo Falcone, ufficiale in congedo, Raffaele Conte, avvocato e presidente della Camera Penale Friulana, e Rosario Genova, ex ufficiale dei Carabinieri. La prossima riunione, in cui verranno eletti il presidente e il vicepresidente dell'osservatorio, è stata fissata per il 25 luglio. Questo primo incontro è stato allora l'occasione per fare un piccolo bilancio dell'attività svolta in questi anni. L'osservatorio è stato istituito per legge nel 2017 ed è operativo dall'anno dopo. Il lascito più importante, ha ricordato Clama, è la convenzione firmata con la Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Ateneo di Udine per portare il contrasto alla criminalità organizzata nelle aule universitarie. Tra i temi affrontati dall'organismo, anche il riutilizzo sociale dei beni confiscati e il contrasto al caporalato, tema tornato di recente attualità anche in regione. Per il 2024, in attesa delle linee guida che saranno fissate dalla nuova assemblea, il focus su cui l'osservatorio sta lavorando è l'usura, un fenomeno che sembra essere ridotto, ma, ha concluso Clama, è proprio quando gli allarmi non arrivano alle forze dell'ordine che bisogna prestare più attenzione. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. La Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Vicenza a carico di un 51enne cittadino serbo. Erano stati controllati sulla A4 all'Isert due veicoli, uno con targa italiana e un altro con targa serba, che avevano omesso il pagamento del pedaggio. Il conducente di una delle due auto, un cittadino bosniaco del 74, è stato sanzionato ai sensi del codice della strada. L'altro conducente, un cittadino serbo, appunto residente in Serbia, è risultato invece destinatario di un ordine di carcerazione ed è stato associato al carcere di Trieste per scontare 2 anni di reclusione. È stato anche appurato che il cittadino serbo era senza patente di guida perché mai conseguita. L'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. I giorni scorsi i poliziotti della squadra mobile della questura di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 24enne domiciliato in città per cessione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 15, in largo Goldoni, in prossimità del parco Martiri delle Foibe, gli agenti hanno notato un cittadino pakistano già noto per reati specifici, prima a nascondere qualcosa in un aiuolo e poi cedere un involucro ad un giovane che gli si era avvicinato e che a sua volta gli aveva consegnato del denaro. I poliziotti sono riusciti a bloccare anche l'acquirente, ragazzo italiano residente fuori regione, che aveva acquistato 400 mg di cocaina e 100 mg di hashish. Il pakistano è stato trovato invece in possesso di 590 euro in banconote e nell'alloggio sono poi stati rinvenuti ulteriori 42 grammi di hashish e 41.190 euro in banconote, probabile provento di spaccio, visto che l'uomo è privo di qualsiasi fonte lecita di reddito o sostentamento. La droga e il denaro sono stati sequestrati e l'uomo arrestato ed associato al locale carcere. Il primo bilancio di Società Autostrade Alto Adriatico sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci venerdì, ma l'utile di esercizio, pari a 2.600.000 euro, è già reso noto via delibera di giunta regionale che ha approvato il documento. Il periodo considerato va dal 1 luglio al 31 dicembre, i primi 6 mesi di attività della in-house che ha sostituito Autovie Venete. La vecchia concessionaria nel 2022 aveva realizzato un utile di 32.700.000 euro, oltre 11 milioni in più del 2021. Nei bilanci del 2023, sulla strada della liquidazione, l'utile era stato invece di 6.400.000 nel primo trimestre, di 28 milioni dal 1 aprile al 31 dicembre. Nel 2023 sono stati registrati più di 50 milioni di transiti, il record storico delle tratte tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, un trend che non si è interrotto. Da gennaio a maggio di quest'anno siamo a più 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tutto questo mentre proseguono i lavori per completare la terza corsia della 4 da Trieste a Venezia. A 13 anni e mezzo dalla posa della prima pietra si è arrivati a 60 km di carreggiata allargata, poco meno di 2/3 del progetto originario di 95 km da Quarto d'Altino a Villesse. Per la parte rimanente si dovrà fare i conti ora con i costi in aumento. Secondo le stime di Società Autostrade Alto Adriatico si è passati da una spesa prevista per opere da realizzare da circa 1 miliardo a 1,6 miliardi. al netto dei nuovi interventi di rifacimento delle opere d'arte, ovvero ponti e viadotti, stimati in circa 350 milioni di euro e da realizzarsi nell'arco della concessione trentennale. Antonio Paoletti è stato confermato vicepresidente vicario di Unioncamere. Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia è stato indicato come referente del mondo Confcommercio dal presidente Carlo Sangalli. A microfoni spenti ci ha confessato che se l'aspettava Antonio Paoletti di essere riconfermato per un secondo mandato alla vicepresidenza vicaria di Unioncamere, ma ha anche aggiunto con franchezza che la rielezione è stata anche un apprezzamento per il lavoro di squadra svolto finora. Intanto però sono numerose le sfide da affrontare a breve, a iniziare dal calo della natalità per la criticità nel reperimento della manodopera che ne consegue, oltre alle incertezze legate alla sostenibilità del sistema pensionistico. Altro punto su cui lavorare, quello dell'immigrazione, già affrontato nel primo incontro di ieri con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, è cruciale anche per la regione. Ci siamo offerti come sistema camerale per poter dare una formazione agli immigrati, insegnare le lingue, ma poi inserirli lavorando assieme alle strutture di formazione nazionali per inserirli nel mondo del lavoro e nei lavori di cui abbiamo più bisogno. C'è poi la questione delle infrastrutture da rinnovare a livello nazionale e la sofferenza in cui versano i porti dell'Alto Adriatico a causa delle rotte spostate verso il nord Europa in seguito al conflitto al canale di Suez. Problematiche che però ora possono essere esaminate alla luce della congiuntura economica nazionale favorevole e del buon posizionamento delle imprese del bel paese nel contesto globale. L'italiano c'ha la fantasia, per cui di conseguenza inventa, fa, siamo ai primi posti per innovazione tecnologica nel mondo della moda, nel mondo dell'industria meccanica, eccetera. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia appena arrivata in redazione sull'avvertenza Varsila, approvata a maggioranza schiacciante dai lavoratori all'accordo trovato fra i sindacati e proprietà uscente e subentrante per il passaggio verso la nuova fase produttiva nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, che verrà gestito da MSC. Il piano è stato approvato dal 99,2% dei 247 lavoratori che hanno votato su 261 aventi diritto. Nello specifico, i sì sono stati 243, i contrari 2, con una scheda bianca e una nulla. In base all'accordo, 261 lavoratori passeranno a MSC nel corso del mese di luglio, mentre per tutta la durata della fase di passaggio sarà in vigore la proroga del contratto di solidarietà, con ultima scadenza il 31 luglio 2024. I lavoratori trasferiti, Varsila garantirà un incentivo di 17.400 euro in aggiunta alle competenze previste della legge, mentre MSC garantirà l'anticipo della cassa integrazione straordinaria con un'integrazione di 210 euro al mese per i prossimi 24 mesi. Un gruppo di imprenditori della Carnia, coordinati dall'Associazione Candoni, ha donato all'ospedale di Tolmezzo un'attrezzatura per la tomografia oculare computerizzata. Chi risiede in Carnia non dovrà più andare fino all'ospedale di Udine per una diagnosi specialistica sui problemi degli occhi. Il presidio ospedaliero di Tolmezzo ha da oggi un tomografo oculare computerizzato, uno strumento che permette una valutazione dello stato della cornea, della retina e del nervo ottico, lo strato che viene più colpito dalla malattia del glaucoma. Il tomografo permette un esame che dura circa un quarto d'ora, non invasivo e senza contatto con l'occhio. Non necessita di dilatazione della pupilla e sostituisce anche esami angiografici che necessitano invece del mezzo di contrasto. Alla fine elabora una ricostruzione tridimensionale dei tessuti. A donarlo al presidio carnico è stata una rete di imprenditori del luogo, coordinati dall'Associazione Candoni. Nata con l'obiettivo di consegnare borse di studio per gli studenti delle scuole di Tolmezzo, ora vuole contribuire a potenziare una sanità territoriale che rischia di impoverirsi. All'ospedale di Tolmezzo è da poco iniziata anche la presentazione di un'altra iniziativa, sempre volta a colmare alcuni vuoti della presenza del sistema sanitario sul territorio della montagna, dove tanti sono i cittadini fragili e anziani. Si tratta di un'alleanza diagnostico-terapeutica tra i residenti e i neurologi dei distretti e degli ospedali contro la malattia di Parkinson. Tolmezzo, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Boom di nuovi testamenti biologici in Friuli Venezia Giulia. A rilevarlo l'ultima indagine dell'Osservatorio sulle disposizioni anticipate di trattamento, il DAT, dall'Associazione Luca Coscioni. La Regione ha registrato il maggior numero di DAT nel 2023 rispetto all'anno precedente, con un incremento del 120,4%. Questo dato evidenzia una crescente consapevolezza e interesse dei cittadini della Regione per il testamento biologico. Nonostante questo incremento, il Friuli Venezia Giulia non figura tra le prime 5 regioni italiane per numero di DAT depositate in relazione alla popolazione maggiorenne. Le regioni con maggior numero sono Abruzzo, 1 ogni 134 abitanti, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, tutte con 1 ogni 143. A livello provinciale la situazione in Friuli Venezia Giulia mostra una crescita distribuita uniformemente tra i comuni. E cambiamo argomento. Nella sede di Gorizia della Facoltà di Architettura è iniziato un laboratorio che ha l'obiettivo di avvicinare gli aspiranti progettisti alla pratica del loro futuro mestiere. Una settimana di progettazione intensiva per sviluppare il master plan di un'infrastruttura architettonica, lavorando nello stesso modo di quando si partecipa a un concorso. Divisione in squadre, discussione e confronto tra prospettive diverse, sviluppo delle diverse parti del piano. Funziona così un workshop integrato di progettazione, modalità didattica inventata dall'architetto triestino Ernesto Nathan Rogers e oggi adottata in tutte le facoltà di architettura, compresa quella dell'Università di Trieste, al Polo di Gorizia, dove gli studenti coinvolti sono 120. È impegnativo perché è una settimana intensiva, però ti permette di imparare tanto sia guardando gli altri che guardando i professionisti. È un primo assaggio di quello che ci potrebbe aspettare dopo la nostra esperienza universitaria ed è un primo modo anche per in un certo senso variare il nostro modus operandi, il nostro approccio alla disciplina. Il workshop dell'Ateneo Triestino ha una sua particolarità. Giuseppina Scavuzzo, docente di progettazione architettonica all'Università di Trieste. Fare questa esperienza non con i docenti che seguono normalmente il corso di laurea, ma con dei docenti esterni che chiamiamo, dei visiting, che normalmente vengono dal mondo della professione, quindi sono architetti di fama internazionale. A guidare gli studenti quest'anno, i componenti dello studio AMA di Venezia, già ospiti dell'ultima Biennale Architettura e autori di progetti pubblicati sulle maggiori riviste di settore. Il titolo del workshop, Nomadland, richiama l'incrocio tra stanzialità e movimento, mentre l'obiettivo sarà progettare un'infrastruttura domestica e pubblica sul crinale del Monte Sabotino. Marcello Galiotto, architetto, studio AMA. Pensiamo che in questo Monte Sabotino, in questo luogo, possa proprio avvenire un esperimento sull'infrastruttura di accoglienza e di, come dire, integrazione tra persone che hanno background diversi, che fanno cose diverse, che vivono la vita in modo diverso. Gorizia, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Partirà il 19 settembre da Villa Manin la prima edizione di FVG Bike Trail, presentata oggi in regione a Udine e organizzata dalla It Takes Two SRL, società benefit con sede a Udine. L'evento non competitivo è rivolto a tutti i grandi amanti della bicicletta e del turismo all'aria aperta, con lo scopo di guidare i suoi partecipanti alla scoperta delle meraviglie della regione. Per prendere parte all'evento è possibile scegliere tra due percorsi ad anello di diversa lunghezza e intensità, il più lungo da 490 km, il più breve da 190. Ciascun percorso è studiato per dare ai partecipanti un concentrato di natura, storia e bellezza del territorio e si snoda lungo le strade secondarie e forestali della regione, dalle colline di San Daniele fino al litorale di Lignano, passando per Venzone, Gemona, le valli del Torre e del Natisone, i colli orientali, Cividale, Palmanova e Marano Lagunare. Ogni partecipante decide liberamente quale percorso affrontare, quando partire, quanto pedalare e dove sostare. Punto di partenza e di arrivo per entrambi i percorsi è la location di Villa Manin a Passariano di Codroipo. Mancano più di 2 mesi al taglio del nastro, l'evento FVG Bike Trail registra già più di 400 iscritti, dei quali il 30% arrivano dall'estero. Ginnastica femminile. L'associazione sportiva udinese conquista 17 titoli nazionali a Rimini per ginnastica in festa. Le atlete della ginnastica artistica femminile e della ritmica confermano il successo dopo le 30 medaglie conquistate ai campionati nazionali del centro sportivo educativo CSN assieme ai compagni della maschile. 7 gli ori per la ginnastica artistica: Ginevra Schiavon, Amelia Ceschiuti, Giulia Giacomini, Ludovica Oleotto, Elena Sattolo, Ludovica Vite, per la ginnastica ritmica Carlotta Sirk alle clavette. Siamo alla musica, il Festival Udine in Jazz proseguirà fino a domenica, vede oggi protagonista la Zero Orchestra che musicherà dal vivo al Giardino Loris Fortuna alle 21.30 il film The Navigator di Buster Keaton. Alle 19.30 l'ex trio di Letizia Felluga si esibisce in canti brasiliani a Corte Morpurgo. Giornata ricchissima quella di ieri, culminata con il concerto al Castello di Udine del bluesman texano Gary Clark Jr. Numeroso il pubblico accorso per buona parte dalle vicine Slovenia e Austria. La serata di ieri ha visto anche l'appuntamento di Udine in Jazz for Gaza al Parco Moretti a sostegno di Medici Senza Frontiere, il jazz che veicola un messaggio di pace e di sostegno al popolo palestinese. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Mario Cumin e Walter Vidonis, da Francesca Terranova e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.